pietate, più del gelo e più dei marmi, fredde sorda i miei martir, fredde sorda i miei martir. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Luci ingrate dispietate, luci ingrate dispietate, più del gelo e più dei marmi, fredde sorda i miei martir, fredde sorda i miei martir. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir.